Pippo Pero. Pippo. Ma capisci, è Pippo Gino. Pippo. Si sei fuggito. Ecco, stai da giudizio con Lugani. Ma era Lugani che portava a te. Stai della Direndi. Ma non ho una giugana io, tiraendo. Stai giudizio da già, 2 ore fa, 1 ora e mezza fa, 2 ore fa. Mi rifare l'anniversario delle settime. Proprio così, macchina si è baciata. Ehi, non ti ho, non ti ho riconosciuto, poi mi dico come mi sono girato, cazzo d'ore, e da gruggare. Se tu non guardi bene. Sì, ma io devo guardare la sala, ma se guido guardo la sala io. Ma vai, vai. E allora, attore, è così. Io sono un tipo prudente quando sono nella guida. Certo, bebù. Ma tu ti dici no? Non c'entra in un bel, ma bebù. Ma non è gana, sei cracker che c'ha il microfono. Bebù. Tu di, mi sarà così. Ma vanno a entrare qualcuno. Marina, sentisci. Sto mangiando la gente. Frequenza. Sentito stamattina anche Luca c'era. Andare, no, io ero giù al vero, si stava bene, cazzo c'era questo venticello, si stava veramente bene. Venticello di maestrale. Sì, cazzo, vabbè, non so quel caldo, un metro da fare, cazzo non si riesca. Se ne rimani vedi sul gallo. Da oggi è passato. Adesso domani dice che lo stesso passavano troppo la temperatura. Oggi erano 28 gradi. No, il maestro già lo sai cosa fa. Si abbassa un po' la temperatura, si abbassa. Ma che si fa più bene. Guarda, io ieri notte quando sono arrivato ero a cena da mia zia. Cazzo, si stava bene giù a Canica, non stava tutto qua, cazzo arrivino che aveva un carico, non si poteva lasciare. Perché lì è più all'aperto, ecco già, lì è più aperto. E poi vicino lì ci passa un fiume, ci passa. E appunto, è proprio davanti al fiume, dove c'è il passaggio a livello sta lì. Infatti è così. Lì vicino ci passa il fiume, per quello c'è quell'arietta fresca. Oh, se ti porti, bevi un altro quel caso. No, già si stava bene, là. C'era quell'arietta, già si stava bene. Si stava bene. E io non che il cazzo era un foro. Ma qua non già si stava bene. No, guarda, adesso io sono in casa e si sta benissimo. Sì, ma no, non c'è quel caso. Non c'è quel caso a forza. E così si sta bene, si sta. E vabbè, fino a che non passa. E Battisio? Dov'è? Che turno è Battisio? Ah boh, tu già sei già a casa Giulia. Sì, avrà entrato a casa. Oh, e no, entra Magenta. Ma rimane Battisio da domani? Oh, io non c'ero. Non c'ero ieri sera. No, quando sono rientrato erano già le 8:10. E allora che chiusura è la media con la chiusa per la banca. Eh? Ma che chiusura, ma non mi senti? Sì, no, ma non lo so io, ero un gaffendi. Eri un gaffendi? Non lo so cosa sono se fanno. Se ti ha giù puro. Pure. A chi mi puoi giocare? Perché ti ha ammalato il microfono, sì. Dai, è lontano il microfono. vabbè, c'è chi c'è ancora, grazie, perché c'è un quattro, sono. Sì, già fa entrare. Se è all'ascolto, già entra. Già entra, Bacchizio. Ma se no sta facendo vedere che è posto anche lui, insieme a Marino. Marino ha già preso mangiare. E la Cucinelli. Cucinelli? Sì. Ha mandato un paio di foto. Che la Cucinelli? Sì. È passato. Chef è passato. Purtroppo sì. Ma pure Luca era così che mangiava. Allora parliamo che mai cucinato. Hai compreso? Già ci ho compreso. Purtroppo tutti sono diventati buoni. E mi manda da me pure. Andiamo, andiamo. Niente, aiuto che prova a chiamarlo. Attenzione, signor Bacchiglio. Si sa che hai beccio. Lo sai, Otto? Si sa che hai beccio. E parola. A chi non rispondi? Sicuramente c'è una miglia fa puzzetti. Sì. Vuol dire che ci sei rifugendo? Sì, adesso fa piacere con questa aria tanto da bene, non c'è qualcosa. A me mi piace così, a dove? Però bisogna stare attenti a questa arietta, a chi gli sa colpisce. Ragazzi, mi devo buono, un cappotto. Oh, devo dire, mi giuro, che se dovessi stare attenti, come ti dico un documento di buono. Sì, vabbè, adesso che dato il gas, e sto con pura. Andiamo. Ehi, vabbè. Ma manco già Maria, beh. Ma sentite, anche a me era prima. Prima che colessi è arrivata gente. Ma sicuramente tu, non lo so, è arrivata sorella, con il mio piccolo nipote. Se non c'era entrato. Sicuramente allora va gente in casa e ha sudato un lutto. La lascia, già la lascia accesa, allora. La spegne non penso che lo spenga, però se non va nessuno c'è niente. Non saccio, saccio, boh. Se vuoi entrare già se meno qui. Ma abbiamo riparato. Poi finirà. No, non ve ne è più gana come te prima. Io a ci credi che cazzo sono andato al vero stamattina, non mi gioco manco andato in spiaggia, è che sono a due passi dalla spiaggia. Beh, non mi gioco andato, perché non mi attira più. Prima ci sono andato, quando avevano i gabbini, non mi parlava. Adesso il mare proprio non mi ha più la brutta. Sì, se vado quella retta e poi me ne voglio subito andare. Vedi, è così che fa, purtroppo. Anche a me fa così, non mi dà più voglia di fare nulla. Poi, cazzo, si fa il capollamento, con tutti i salienti, vedo su lì, vedo su là, cazzo, ti viene lo sfero, ti viene. Io ho visto che l'altra volta sono senza fare un giro col cane e gli ombrelloni erano distanziati parecchio uno dall'altro. Ma cosa lascia perdere, Ottorio, che cazzo sono sceso lì lungomare, a Ghero. Tu non si crederai, ti metti le mani in testa, uno attaccato all'altro. E manco uno va via la mascherina. Un attimino, Mario. Via. Rigido, Marino. Ehi, Emanuele. Sì, Otto. È entrato nessuno, no? Sì, ti stavo dicendo che sei stanchi a fissarlo il microfono. Sì, sicuramente sono stanchi di... Vabbè, sono andati a mare, a bere, a... E un bel di russo. A qui sono andati, non a mare. Ah? A qui sono andati. Sì, è l'uguri, andiamo. Io ho già che è rimasto in casa oggi. Sono Marco Bacchiglio, sentisci. Marino, il giorno sta ricordando. Marino, sicuramente va gente che gira. E non può rispondere. Bacchiglio mi sarà stato da campagna, sarà tratto. Così è. Allora, mi pare che diventi la voce di Luca. Attenzione, Luca! Oggi dorma. Vuol dire da 6-3 mesi saranno i fratti. Guarda che la domenica stanca, amico. Se tu non ci credi, non ci ho fatto nulla, ci ho parlato alla vita, ci ho passato, sono più fatto di prima. Anche così, che fai? È così. Il Purtroppo sì. A base sta addosso. A base si intende sta addosso. Beh, lasciamo qui. Ma fai qua stare. Ah, va bene, intendo. Ah, intendo, andare. Che fai qua stare? Sì, sempre con la frequenza là e per radioamatori. Quella è l'Ina Nazionale. Link Nazionale. Link Nazionale si chiama. Io lo chiamo l'Ina Nazionale. Andiamo, andiamo. Purtroppo è così. È così, è così, è così. Senta, ne vedo tre gurori, non intendi? Cos'è questa cosa? È la segretaria mia che mi ha detto la frequenza. Certo. Cioè che la segretaria è complice. E buccia il gioco. Sì, andiamo bene. Ma che da parecchio, quindi dura? E quale? So che ti è rimasto. Il 7000 l'ho venduto. L'altro? L'altro sto usando questo. Questo qua mi è rimasto. Il coso? Il... Non me la metto più. Siete delle sì. Oh. E quello non l'hai dato ancora. Ah, questo qui interessa un amico. È un amico di fuori. Sostenendo e poi anche questo parte molto come detto quanto si vale il gasolio la trucida di dice 3,60 quanto l'ho preso 3,60 aspetta mi scendi un rumore si sa? Non so vedi si sì, era lui stava facendo il rumore ma il tuo? Ma non questo, no, l'altro per lo spentolo perché ce l'hai vicino allora? Sto lontano un chilometro e ma cosa ce l'ha? Attaccato nello stesso alimentatore? No, questo c'ha l'alimentatore suo a parte ma come mai ti fischi allora? Boh, forse perché l'ho messo gli ho abbassato il volume così mi hai detto di sobregio mi hai detto ma sicuro sì? Ma ti sicuro sì? Ma funziona bene? Allora male funziona, ma buffone di zitto, che funziona bene? Se vengo lì? Ah va? No, domani. No, adesso no. Allora, domani non ci sono, martedì. Tienimelo in caldo, sono in mezzo al coso, tienimelo. Poi lo provi, non c'è problema. Sì, facciamo così. Poi se devi parlare mi parla al telefono qua, che vi siete parecchi. Sì, già facciamo così. Ma bene ti sto arrivando io, sì? Dove sei stata? Quindi così non arriva. Sì, da Edo. Perché se ti attenuo arrivi a 8, 9. Sì, aspetta un attimino. Manuel! Ehi, atto. Fammi sentire il processore di quel coso lì. Allora, così è senza. Così è senza. Sì, sì. E io che ti sento, sto ascoltando. E così è col processore. Com'è? Ah, ma non c'è un bad nulla. C'è sempre lo stesso... Sì, siamo vicino, ma ti va a comprendere un processore o senza... Allora, attendo un attimo. Siamo Savelli, Sardini, a Sescucci. Ehi, Bacchi. Ehi, Emanuele, buonasera. Sì, che c'è anche Tore. Ma senza motore o col motore? Buonasera anche a Tore. Ehi, buonasera, signor Bacchi. Aspetti un attimino, Dove, come, Tore? Prova adesso, aspetti un attimino, Bacchi. Prova adesso. Allora, così è senza compressore, Tore. Quindi un po' la modulazione. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ascolta anche tu, Bacchi. Poi così, e così, e col compressore. A cambia la modulazione. Sì, ma il segnale è sempre lo stesso. La modulazione cambia appena appena. Vabbè, il segnale non te lo cambiano, la modulazione ti cambia. Sì, ma dovrebbe aumentare anche. Aspetta, chi è che va a entrare? Ma chi tu sei? Io sono dentro. Ti ha detto, ha cambiato, è più forte e anche più robusta la modulazione. Vabbè, te la fa più grossa, ma perché spinge di più col compressore. Chiaro. E poco qua era più bassa, adesso è più alta, più forte. Questo qua è col compressore inserito. E cosa stai usando perché adesso con noi? Sto usando il 706. Il 706, ho capito. E questo da un po' di watt li dà? No, lo sto, sì, questo ne dà tanto di watt. Lo sto usando al minimo di watt, non li uso al massimo. E perché non si capisce una H e vicinanza? Avanti, Tore! Come ci ha mandato un giorno? Sì, devo usare la metà, infatti di circa, e sto usando tutto al minimo. Va bene Emanuele, va benissimo. Tore, che cucci vai Emanuele? Non so cosa sto facendo. Dopo, il barito di recupera, Tore, e ti dimmi, va. Tore. Offeso. Un attimino, Bacchi. Che cazzo è offeso, Emanuele? Offeso, zitto. Offeso o infuso, uno dei due. Atto, infuso, dici. Al mulino, lo sentite, Emanuele, no? No, l'ho sentito stamattina, cioè, al telefono, a basso. No, l'ho sentito via radio a mezzogiorno. Non c'ero, era Alghero. In compagnia di una straniera? Sì, Se ne era, vedo così. Tore, sei arrivato. E poi ci vanno, caccia nel rano, io ho visto. Ma sei combinente. Ma che cosa è combinente? Se non è quello di spugna panza, a palavammi. Tore, ma fammi, vai. Se vuoi ti faccio un pane di guagliosa. Sì, c'è stato il lavoro, guagna. Fammi un po' con i carboni. Ditevi che è impegnato, sembra niente la base asciutta che è avanzata a mezzogiorno. Tore, casa Tore. Cioè, sei più inteso, è coso, Luca, coso, malincomio. Non so, stanno in piedi, tutti gatti. Porto quadrato, non porto rotondo, ma porto quadrato. Ah, Roberto, ma non l'ho più sentito neanche io. Sono più di un mese che non lo sento. Minimo un mese, non più. Mi ha fatto tutto in dinamico. Ma stanno in piedi. In teoria la sera in campo, faceva qualche chiacchierata. Ma no, non l'ho più sentito. No, io non lo sento più. Non l'ho più sentito. Cosa ci trovano? Qui sono venduto tutto. A chi è che gli vendica che cosa? Se non ha fatto pulizia del tutto. No, ma non penso, Bacchi, non penso. Siamo qua, si è arrivato Tore, squalo. Lo squalo sembra niente, una binna. Vediamo se c'è Marmolino in ascolto. Marmolino, ci sei? Sei Marmolino. Nulla la va. È parito, Se non va. Tore, magari la capa asciutta. Tanto non si porcheggia la gente, si andando senza di nulla, non è alla mia altezza. Ciao, va a vedere, non so se è parito. Tu dici, meglio che potrete i canali, solamente a farmi un panino, abbiamo la testa leva. Abbiamo i bacchini, nulla, si lasciano come intervaini. Ma i bacchini non vi hanno appigliato i bacchini? Non lo so, però. Se partiti di Parigi o basta, io ero in campagna. La sera mi da due non faccio i bacchini. Sì, di Nino Costa, le buoni. Non vado nel corri, tutta la vita non vado nel corri. Tore, ci sei? Tore, non fare così, Tore, non fare la stupida. Non si risulta, nulla. Ha detto, ha fatto una. Valmolino al riparo di Rovento in campagna con la bionda, io Tore, senza motore, vieni avanti. Ma io Tore, poi dobbiamo seguire. Scavano un gabbafura, dite non la cava. E Gian Maria non si è inteso più, sono un precedente da Gian Maria. Sì, era PMR, sta parlando, non è PMR, c'era anche Cavasacchi, Tuino. E poi deve essere arrivata gente, e ha dovuto mollare, altre entrava dopo. È vero, no, il mio nel primo mese si è scaricato il portatile e si è tomato a bocca asciutta. Ho parlato con Marino stamattina in PMR. Poi è gestivato, hanno assegnato la mia batteria. Ma cosa sta usando in PMR, Bacchi? Il buffering, sai? Sì, il buffering. Non c'è quello per trovare, no? Anche quello. C'è anche quello per trovare. Due, tre in viaggio. C'è quello piccolino piccolino, poi c'è quello della Cosmo, del Rockson, un professionale, e più quello Baufeng. Il Baufeng già va bene, cazzo, vanno bene qui. Vanno benissimo, costano poco e vanno anche bene. Il secondo, il primo me l'hanno rubato. So dove l'ha pigliato, ho preso la serranda, ho pigliato in terra per mettere il lucchetto, mi sono dimenticato, dove cosa ho fatto? 6-7 metri, 10 metri al massimo, mi tocco la radio in terra da sotto, io dove era più, e ho visto un tipo tornando indietro, e era Edo l'ha pigliato, Edo dice no, ma è seduto. E quale c'hai? Quello della... con la mascherina grigia o Bacchi? Quello giallo. Ah, come quello c'è la Giammaria, in gomma. Non c'è proprio niente. Quello nero che avevo prima, il primo che ho preso era una bomba, e che non si era nuda. E che ce l'ha fatto? Se l'ho preso su internet. Però non mi accontenta, si scarica subito la batteria. E poi è sordo perché con l'altro due antennine, uguali antenne, sì, con là si sente e lui è zitto. E allora la radio è sordo. Sordo, è un apparato sordo. Non bemmi. È sordo l'apparecchio. È sordo pure dalle binne, baciamento, dottore. Se si stimagna la buri stamattina. Dottore. Dopo. La ditta a Poggiana fa la volta. Se tu l'hai fatto una rivolta, tu ragazzi, si chirri, e l'hai fatto sopra, ma non intendi più. Ti sei che la metti via. A me mi pare sia l'antenna di Dore non serve. A me lo metti in intendi, Bacchi. Tomba, mi pare sotto a casa. Secondo me c'ha problemi lui in antenna. Fai strano a me. Problemi d'antenna, a chi? Edo è anzi di chiamare i più forti dole che tu, invece c'erano i più forti giocatori. Ah, sì. Non esagerarmi. Mi riesci da pizzo. Sì, cioè, quando fa di mare riesce a sacciare, bisogna pigliare a fare dei bini, io ti può fare la sala. Ma che qui non mi hai fatto? Ero al telefono, ho detto un attimino, ho detto, gatta. Un attimino che sono al telefono. Ma hai inteso due, non ha inteso. Cosa mi hanno inteso, hai detto? Mi va giù di tu, un attimino va giù di tu, in mezzo uno che all'altro difende il ping e pong. Il ping e pong. E poi allora? E pong e pingo. Mi va a dire allora al microfono. Ping e pongo. Emanuele, un bel fiucciato di te. A fase 9.30 e tu sei 9.40, che tu vuoi 9.25. Secondo come ti di buoni. È così bene so che scenda va. Sto scendo 9.5. 9.5, non esagerarmi. Andami, io sto leggendo sul 889 dall'Inter, quello da canali. 9.5, 9.7, adesso non arrivi. Arrivi adesso io ancora puntà. Ma che su questo non è giusto come coso. Quello lì lo fa anche a me, lo fa, più di tanto non dà. Lo commento, ma sai che sto il muso. E le mattesse in questione di te con Emanuele. Emanuele lo mette strumento, fa sentimi. Non è che fai dove lo strumento dovresti, lo mette sì strumento. No, ma dipende anche dalla zona, lui c'ha la zona buona anche. Anche se ce l'ho in alto io, non è che sia zona assai più... più accorgio, ecco, lo già. Sai, la zona 2 è più buona che c'è Emanuele, ma noi in mezzo ai palazzi, in mezzo ai palazzi sono l'altro, tu scegli la via aperta, mentre io te scegli in mezzo ai palazzi, c'è un cappato, gioco. Infatti, se vedo che non arrivo, e se non arrivo che ci vai, davanti per noi. Questa è una buona mia, a me già la vecchia parchigia mi seguì, questa è proprio da patate, se già la buona tu non vedi, tu vedi un'altra da bicchiuria. Però, come vedi che se tu sei coperto, le cose, stai uscendo forte, vuol dire che la zona è buona. Ma cosa stai dicendo, ma no, non stai dicendo proprio nulla, non stai dicendo proprio nulla. Nella zona tua è più buona della mia, a chi tu vai tutto a biscio, io non ti dico a biscio. Allora, se io metto l'antenna come ce l'hai tu giù, non riesco così. Tu invece ce l'hai giù nelle cose, vicino all'albero. Adesso forte, ecco cosa ti sto dicendo. Spiega dove tu pacchi. Dottore, ti ho detto no, mi stai sbagliando. È questione di antenna, l'antenna tua c'ha qualche difetto, quella di Emanuele è più perfetta. Perché se togliamo l'antenna tua, la mettiamo da Emanuele, c'è il 0.0. No, non lo so. Non lo so, dovevo controllarla quest'anno e non ho fatto nulla. E non me ne ha fatto nulla, così è, così da rimane. Devi guardare, magari si è mollato il PL, qualche cosa, vedi che non anda, no. Qualche cosa c'è, capito? Ho il capo, c'è stazionaria, se non la controllessi non lo sai cos'è. Forse da dottori e farla controllare. No, è come stazionarie, è zero di stazionarie, zero, uno di stazionarie c'ha. È come coso, l'ho controllata l'altro giorno, ma sono giuste. No, non so come spiegarmi. Se mi senti, uno che è in terra, attaccato alla gravera, esce una bomba, tu, pio pio, confronta Emanuele, sei pio pio. E così da Marino, Emanuele arrivi più forte di te. Io, ce l'ho io. Devi controllare l'antenna, è così Emanuele. È quello che gli ho detto anche io, secondo me c'è qualche problema all'antenna. È quello che gli ho detto parecchio tempo fa. Non lo so, io ho controllato le stazionarie e sono giuste le stazionarie, non mi sta dando coso di... Oh, un giorno, forse domani, lo provo senza metterci il commutatore. Come ascolti tu Bacchi adesso? E a te? Come ascolti? Un po' saturato, sì. Saturato? Adesso com'è? È migliore. Il segnale com'è? Ah, non ho capito, più di 70 non anda Emanuele. Bisogna che fosse un buco per farsi uscire doloroso. E Zacchetti. Se circola la valetta, sto rendendo, ma sai cosa, un buccaletto nel vostro. Otto, appena hai un drappo nel vostro buco, baracchino, per vedere un segnale di Emanuele. No, ma l'otto 9-8 no. Fa così fa, le tacchette non vanno più di quel tanto, non vanno. No, non faccio. Aspetta, attacco in molti modi a vedere se in linea, non trovate in funzione, questo è acceso. Vedere se c'è antenna. Perché lo fa anche il mio così, più di quel tanto non dà. Manuel. Ehi, atto. L'otto 9 o 9-8, come si chiama? E l'inter che quello lì più di tanto non ti dà. Ma vedo fino a 9.30 arriva. Arriva con quelle tacchette, arriva a 9.30 e non va di più. 9.5, 9.30. 9.5, 9.30. Arriva fino a quella tacchetta e finisce lì. Arriva solo quello bello lì e basta. Cos'è? Digitale? Digitale. Ah, chi? Sì, sì. Aspetta che sta mettendo il multimode. E qual è? Quello già Maria? No. Non lo so con capirai, non di sasso. Ma il multimode non è quello da base? No. Come? mettere anche in macchina, dove vuoi lo puoi portare? Perché anche io ce l'ho avuto il multimore, che potevi mettere a essere 400 cani, potevi fare la modifica, quello lì è digitale, che c'è la frequenza di metro lo stesso. No, non è quello lì. Non è quello lì. C'ha, non so, c'ha MFM, LSB, USB e poi altro non lo so cosa c'ha, però non è digitale. Non lo so allora qual è. Perché io c'ho il multimore, c'avevo il frequenzimetro e il canale a fianco. Ed era veicolare lo stesso. Ho il display arancione. Quello non lo so, io quelli che c'erano prima, multimove va via 200 canali, mi pare, Multimove è questo qua, come ascolti solo con questo? È abbastanza bene, non è forte forte di radio, ma si capisce bene. E questo è il multimove 3, tutto originale, ma noi le avanti. Sì, va bene anche questa, questa è una bella modulazione, bella chiara. Questo è il multimove 3, questo c'ha, diciamo sì, non è omologato, ma è legato. Va bene, la modulazione è perfetta. Sono così pure, te ne devi prendere, sto. No, me ne faccio nulla di baracchini e cose, non ho preso. Non me ne faccio nulla, più che altro... Devo pensare al coso, una volta che non ho preso il patentino comincio ai baracchini a cavazzini. Vabbè, i baracchini ce li puoi anche tenere, anche se li devi buca. Li tolgo da davanti. Ecco, così, dopo il gas, ma così va a vedere un baracchino. No. Non c'è la barra che non si fa bisogno di più, mica uno già vendere, perché ormai è passato all'altro mondo. All'altra sponda, se sì. Vabbè, da, che mi giocciamenti. Ci sentiamo alle prossime, ragazzi. Ok, statemi bene. Ciao Emanuele, ciao Bacchigia, ciao agli ascoltoni. Ciao a tutti. Buon cena a tutto quanto. Ok, ciao, ciao, ciao. Ehi, ehi, ciao, ciao, ciao, saluta la signora, domani. Vai, vai. Avanti, Emanuele. Ehi, ciao, ciao, buona carica, buon tutto. Riascoltiamo tutte le migliori. Ciao ciao, bye bye, ciao ciao ciao, bye bye. Chi anche per me è arrivata quell'ora, anche se ho di pigliare, ma era giusto. Ho un luccio. Andiamo bene bene, ragazzi. Va bene, ma dai. Ci sentiamo domani, ci sentiamo Marmorino, saluto da Miro, a chi senz'altro che facciala. A domani, Emanuele. Ciao, buona serata ancora. Ehi, dai Marchi, buona carica a te. Buona serata con tutto, dai. Ci sentiamo alle migliori. Ciao ciao anche a te.